Sono le 17. GR24, il sole 24 ore. Processo Mediaset condanna a 4 anni per Berlusconi, interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. Alfano, accanimento giudiziario di Pietro, è emersa la verità. Il governo chiede elezioni al più presto in Lazio, Formigoni in Lombardia al voto entro il 27 gennaio. Allerta meteo prolungata a Genova per le forti piogge che stanno battendo su tutta Italia. Formula 1, l'India critica la decisione della Ferrari di correre con la bandiera della Marina per i due Marò. GR24, buon pomeriggio da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati. In apertura dunque con la sentenza al processo sui diritti TV Mediaset, condanna per Silvio Berlusconi, particolari con Andrea Viali, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, il verdetto è arrivato dopo 4 giorni di Camera di Consiglio. Silvio Berlusconi, come dicevi, è stato condannato a 4 anni di reclusione e all'interdizione per 3 anni dai pubblici uffici. L'ex premier è stato dunque riconosciuto colpevole di frode fiscale dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Milano, che hanno assolto invece Fedele Confalonieri. Condannato a 3 anni anche il produttore statunitense Frank Agrama, che assieme a Berlusconi dovrà risarcire 10 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate. Al centro della vicenda, lo ricordiamo, c'è l'acquisto di diritti televisivi e cinematografici da alcune case di produzione statunitensi, una compravendita avvenuta a fine anni 90 attraverso intermediari e società offshore che, secondo l'accusa, avrebbe permesso a Mediaset di gonfiare i costi e creare fondi neri attraverso i quali aggirare poi il fisco italiano. Fu un'evasione notevolissima, sostengono i giudici che oggi hanno emesso la sentenza di primo grado di un processo iniziato 6 anni fa e sul quale ora però pese il rischio prescrizione che scatterà infatti nel giugno del 2014. Per ora è tutto. Grazie Andrea Viali. E tra le reazioni, quella del segretario del PDL Angelino Alfano, che parla di accanimento giudiziario, mentre il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro dice: adesso è emersa la verità. E ora ci spostiamo in Lombardia, dove si dovrebbe andare al voto in una domenica tra il 16 dicembre e il 27 gennaio. A dirlo oggi il presidente della regione Formigoni, dopo un colloquio col ministro dell'interno Cancellieri. Sempre per oggi intanto è previsto lo scioglimento del consiglio regionale dopo l'ultima riunione, che ha poco fa approvato anche una nuova legge elettorale. E dalla Lombardia a Lazio, dove il governo chiede che si vada al voto al più presto, questo l'auspicio formulato oggi dal Consiglio dei Ministri. Durante la riunione il governo ha anche dato il via libera definitivo al regolamento sulle quote rosa nei consigli di amministrazione e deciso di alzare l'età pensionabile dei minatori da 55 a 56 anni. Palazzo Chigi ha infine respinto le dimissioni dei componenti della Commissione Nazionale Grandi Rischi, che avevano riemesso il loro incarico 3 giorni fa a seguito della sentenza del Tribunale dell'Aquila. Alessandra Schepisi ha intervistato il presidente dimissionario Luciano Maiani. Non ho ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale, quindi non ho alcun commento da fare al momento. Al momento appropriato deciderò, soprattutto devo consultare l'ufficio di presidenza per regolarmi, però non ho ancora avuto alcun comunicato. È in attesa di una convocazione eventualmente da parte del governo? Non so, una comunicazione ufficiale servirebbe. La commissione praticamente non sta lavorando, c'è una vera e propria paralisi, come ha detto la protezione civile. La commissione non è che lavora tutti i giorni, La commissione lavora, riunisce prevalentemente su richiesta della protezione civile. In questa circostanza a me non è arrivata alcuna richiesta e so che il prefetto Gabrielli questa mattina è stato giù nei territori, però d'altro canto noi abbiamo già esaminato la questione del Pollino il 4 ottobre e abbiamo dato un breve circostanziato sulla situazione. Allerta meteo per le forti piogge anche in Toscana dopo la Liguria, Genova, e nella regione è stata prolungata sino alle 20 di questa sera l'allerta, con 160 persone evacuate nel capoluogo e 50 evacuate a Borghetto Vara. Sono previsti rovesci temporaleschi anche forti su tutto il versante tirrenico, con particolare intensità oltre che sulla Toscana anche sul Lazio, Campania e Sardegna occidentale. Ora parliamo dello scontro sulla vicenda dei Marò tra Italia e India, che si sposta dall'aereo di tribunale all'asfalto del circuito indiano di Formula 1, perché la decisione della Ferrari di esporre la bandiera della Marina ha suscitato le polemiche del governo indiano. La Marina Militare è una delle grandi eccellenze d'Italia, volevamo dargli un contributo auspicando un dialogo importante tra le autorità italiane e quelle indiane, di cui abbiamo il massimo rispetto, ma ci faceva piacere anche dare un contributo a questo mondo della Marina che è una bellissima realtà dell'Italia. Con queste parole Luca Cordero di Montezemolo replica le dichiarazioni del governo indiano contrario ad utilizzare eventi sportivi per promuovere cause di altra natura. La polemica è nata dalla decisione della scuderia di Maranello di esporre sul musetto delle monoposto la bandiera della Marina Militare. Un segnale di solidarietà per Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò detenuti nel sud del paese con l'accusa di aver ucciso due pescatori durante un'azione di antipirateria in acque internazionali. Sulla stessa linea delle autorità indiane anche il patron della Formula 1 Bernie Ecclestone, che ha ribadito la politicità della federazione. Il Gran Premio è domenica, ancora poche ore per vedere se le Ferrari di Alonso e Massa correranno per i due marò. Giuseppe Borello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, vi lasciamo a Focus Economia.